Radio 24 Reportage. PD di Roma, la crisi vista dalla base, di Francesco De Remigis. Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. In Campidoglio si diceva che il rimpasto di giunta lo avesse già fatto la procura. Era dicembre e Matteo Renzi chiese a Matteo Orfini di provare a bonificare i circoli DEM della capitale, quelli delle tessere fasulle, delle correnti, ma soprattutto della gente. Iscritti e simpatizzanti PD che si ritrovano oggi a vivere un contesto in cui il sindaco è costantemente sotto l'esame di Palazzo Chigi, mentre la base democratica chiede a gran voce se l'annunciata fine del commissariamento della Federazione Romana terminerà davvero a dicembre con un congresso. Ormai si sa che il PD è spaccato, quindi è un problema da risolvere internamente al partito. Sono 110 i circoli democratici romani, un mosaico fatto di volti che oggi più che mai cercano il confronto. C'è chi rimpiange Berlinguer e chi commenta la nuova giunta Marino rinnovandogli fiducia, mentre nel PD renziano il cosiddetto partito del voto si fa più forte. Lui, Marino, il sindaco venuto da Genova, dal Campidoglio, promuove cambiamento senza curarsi troppo delle critiche provenienti dalla stampa internazionale, quelle sulle condizioni della città. Questo pressing io non l'ho mai percepito e l'ho letto qualche volta saltuariamente sui giornali. Davvero credo che in questo momento ci sia una città che apprezza il cambiamento, un Presidente del Consiglio che certamente è felice che siamo riusciti a portare la legalità contabile nella nostra città, credo che sia assolutamente felice del fatto che siamo stati in grado di trasformare una città dove non si scrivevano i bilanci di previsione, una città che le approva per prima in tutta Italia. Io davvero mi sento assolutamente solido e sento che c'è la solidità del governo che giustamente vuole degli obiettivi, gli obiettivi ci sono, noi li raggiungeremo tutti insieme. Marino lo ripete, tutti insieme, e certo non sembra mancargli il sostegno di buona parte dei simpatizzanti PD che dopo il rimpasto di giunta insistono sul suo dovere di andare avanti. Marino sta andando avanti in un modo o in un altro, la terza giunta se non sbaglio che cambia, io mi auguro che vada avanti perché insomma dei nemici nello stesso PD ce n'ha troppi, però a mio avviso è una persona onesta e quindi secondo me ci deve rimanere. Dalle periferie alle sezioni del centro storico nessuno sembra aver perso la voglia di discutere e la festa dell'unità è l'occasione per fare quadrato attorno a un progetto, quello del primo cittadino appunto, perché se la giunta è ancora in vita, dopo essere stata a lungo sui giornali a seguito dell'inchiesta Terra di Mezzo, prosegue sul territorio il compito difficile di Orfini, attento anche a non scontentare troppo i capicorrente, che a Roma ci sono ancora, e come spiega una responsabile di circolo, si fanno sentire. Certi padroni della politica non è che sono andati in pensione perché Orfini ha deciso che cambia tutto. Il congresso che ci sarà a dicembre, sempre se a dicembre ci sarà questo famoso congresso, dovrà portare i reali cambiamenti che lui sta provando a mettere in piedi. Però hai detto che le correnti si fanno ancora sentire. Le correnti provano a farsi sentire, è una logica di potere, quindi le correnti proveranno sempre a farsi sentire, è inevitabile questo. A Orfini molti riconoscono un certo spirito di ascolto, ma il commissario sa anche lasciarsi dietro le critiche con un sonoro ciao, come quello pronunciato alla festa dell'Unità di Roma. Abbiamo fatto mezz'ora di colloquio. E ti ho detto che siete stati immorali, siete stati immorali, no, che siete stati immorali, non fare demagogia, non fare demagogia. Matteo Renzi alla festa di Roma ha fatto solo un saluto senza passare dal palco, evitando il dibattito. Orfini prova ad ascoltare voci come questa degli iscritti storici al PC prima e al PD oggi. Il fatto che uno possa criticare è questo il PD, perché uno è il padrone di criticare, non è il Movimento a 5 Stelle, che se io critico mi cacciano fuori, non esiste, cioè esiste la critica, però è vero pure che nell'ambito del PD il primo nemico stesso da sempre è stato il PD stesso, nell'interno. Nella capitale non c'è però solo Orfini, che ha passato al setaccio la vita dei circoli rivolgendosi a un'agenzia terza, esterna al partito, per far luce sul sottobosco del PD romano, in alcuni casi sfuggito di mano alla segreteria nazionale. Ma neppure l'ex ministro Fabrizio Barca ha abbandonato il territorio capitolino e dal canto suo ha individuato 27 circoli in cui prevalgono interessi particolari che sovrastano quelli generali. Noi siamo molto disincantati, cioè questo è il discorso, cioè la situazione è veramente problematica e sicuramente io non mi riconosco nel PD di Rendi. Personalismi in cui esponenti di corrente trovano ancora spazio e sono gli stessi militanti, che pure riconoscono Orfini il merito di aver iniziato un'opera di bonifica, a raccontare che ancora oggi il tesseramento resta un punto su cui lavorare. Il tesseramento è qualcosa che viene eseguita direttamente dal subcommissario e quindi è lui che in qualche modo gestisce le tessere, gestisce anche la possibilità di dire un no e che quindi fondamentalmente è successo e non mi limito solo a dirti questo, è successo anche che nel momento in cui si è accorto che c'era qualcosa che non andava l'ha proprio bloccato il tesseramento. Questo chiaramente che cosa produce? Produce il fatto che gli iscritti sono minori, ce ne sono di meno, ma sicuramente sono scelti ad hoc tra chi realmente segue il Partito Democratico. A qualche iscritto le correnti piacevano prima e qualcuno le rimpiange oggi, perché alla festa dell'unità manca forse quel dibattito pubblico, oggi sostituito al massimo da un confronto a calcio balilla o a un tavolo da ping pong. Oggi c'è Renzi, ma chi ne manca di più del PD? Berlinguer mi manca. Andiamo molto indietro. Sì, non mi piacciono gli intrallazzi, i compromessi per me non esistono. Prima c'erano anche le correnti, ognuno veniva a parlare, anche rappresentato la propria corrente. Manca un po' questa cosa a chi è stato iscritto al PD per tanto tempo? Sì, quelle mancano. Le correnti nel PD romano non sono mai morte. Chi lavora nei circoli lo sa bene e al massimo si sono messe in stand-by. Il commissariamento della Federazione Romana del PD dovrebbe concludersi prima del Giubileo e entro dicembre tenersi il congresso. Ma i fatti di Mafia Capitale sembrano aver cambiato l'approccio di molti militanti. Si fa quadrato attorno a Marino perché, a detta di molti, se non tutti, è una persona comunque onesta. Non voglio adesso entrare nei meriti di Marino come artefice del degrado di Roma, però vorrebbe Renzi ne effetti cosa ha detto? È una persona onesta, adesso si deve fare. Per quanto riguarda me come semplice iscritto, io di Marino mi fido, penso che bisognerà difenderlo a spada tratta perché è una persona forse giusta nel momento sbagliato per Roma, nel senso che non è colpa sua quello che è successo. Da sostenere a prescindere, in attesa che la Federazione Romana diventi una casa di vetro. Mentre la fiducia nel PD romano è tutta da ricostruire, allontanando le mele marce laddove ce ne fossero ancora, la base è in trincea, aggrappata alla speranza di vincere la guerra che Orfini a Roma sta combattendo praticamente da solo. Ci dava per morti qualcun altro, per dispersi, ma noi l'abbiamo vinta senza scherzi. Anche se il ministro era impegnato con il jazz, il presidente con le belle donne e il suo maggiordomo con i versi. E i cattivi bastardi se ne sono andati, che volevano spiegarsi, non ci siamo parlati, che volevano traslocare, li abbiamo sistemati, che volevano volare, li abbiamo lanciati. Non a caso il commissario straordinario ha aggiunto che il rispetto della timeline, per usare un linguaggio renziano, quella che prevede a dicembre il congresso, dipende essenzialmente dalla collaborazione delle varie aree del PD a Roma, ivi compresa una supervisione sulla giunta capitolina. Le irregolarità del tesseramento nell'anno 2013-2014 hanno fatto segnare un più 40,6%, e a fronte del numero degli iscritti al PD a Roma, 36 cittadini ogni 10.000, le tessere rappresentano il 36,3% del bilancio dei circoli. In questo contesto tutti ripetono che c'è ancora molto da fare, ecco perché si torna ad esternare il proprio appoggio a Marino, il sindaco onesto, perché l'inchiesta della Procura di Roma, denominata Terra di Mezzo, non lo ha toccato, o almeno non direttamente. Marino, non sarebbe giusto che forse collaborassero con Marino? Ecco, appunto. Marino... Presidente, dice. Sì. Presidente Renzi, che collaborasse. No, anche tutti, anche Romano. Anche Romano, che gli danno addosso e non è tutta colpa sua. Il punto, secondo Renzi, non è se Marino sia onesto o meno. Essere onesti non basta, ha ribadito più volte il Premier. Bisogna che i trasporti funzionino e la città sia pulita. Ecco allora che nel rimpasto di giunta è stato chiamato Stefano Esposito, l'uomo che la base romana conosce per aver seguito da vicino la delicata situazione di Ostia e per altri 1000 incarichi impossibili, dalla presenza dei clan legati alla criminalità organizzata che si era impadronita del litorale romano alla TAV. La base lo ha già soprannominato Mr. Wolf dal film Pulp Fiction. Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua? Sì, proprio così. Sono il signor Wolf, risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. Me l'hanno detto, posso accomodarmi? Ma sì, la prego, entri. E se Orfini prosegue, rinnova la fiducia a Marino a sua volta, qualcosa di tarantiniano a Roma sta succedendo davvero, al punto che il commissario non si nega a dialoghi con alcuni ex veltroniani, ma anche bettiniani, una corrente che sembrava defunta e che invece torna protagonista. Ancora qualche dalemiano, altra corrente da cui lo stesso Orfini ha ricevuto l'imprinting prima di apprendere l'arte di parer renziano. E non bastassero queste per accontentare chi nella pancia PD evoca un ritorno alle riunioni animate di un tempo, per non morire renziani, a Roma ci sono anche i moderati che si identificano con i popolari di Giuseppe Fioroni, oppure quelli affini ad Area Dem di Dario Franceschini. Loro, al contrario di buona parte della base, la partita la vedono come Renzi. O Marino cambia passo o è meglio che vada a casa, anche se apertamente non lo dicono. I simpatizzanti continuano a non pensarla così, anzi invitano il Premier a non sollecitare terremoti in Campidoglio. Con la giunta Marino e Matteo Renzi non è giusto che insomma sono uno contro l'altro, ecco. Buona parte delle persone che a Roma vivono la festa dell'unità dal primo all'ultimo giorno insiste nel far sentire il proprio supporto a Marino, qualcuno proprio in chiave anti-renziana. Oggi Marino è la persona più di sinistra che c'è in questa città. Cosa vogliamo fare? Vogliamo dare l'alibi a Renzi di fare il Partito della Nazione a Roma? E nella ristrutturazione del PD romano, la base tutto vorrebbe vedere, meno che un partito spostato al centro o che necessita di supporto esterno del centrodestra per governare la città. Roma ha 3 milioni e mezzo di abitanti, ricorda Orfini, e non si amministra solo dal Campidoglio, ma anche dalla regione e dai palazzi del governo. Insomma, una capitale lasciata alla base, ai politici locali, non è pensabile dopo i lasciti di Mafia Capitale. E così, con buona pace della pancia del PD, il Campidoglio resta sotto tutela, mentre gli iscritti e i capi corrente della federazione aspettano di tornare a pesarsi al congresso. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.